ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Stamattina a Vernasca, in provincia di Piacenza, presso un sito produttivo della cementeria Buzzi, è stato inaugurato l'impianto pilota del progetto Clinker, un progetto di cui abbiamo già parlato perché rappresenta una speranza per la decarbonizzazione dell'industria del cemento, il secondo materiale più usato dall'uomo dopo l'acqua, circa 5 miliardi di tonnellate l'anno. A differenza di altri materiali, la produzione di CO2 da parte delle cementerie non dipende, se non in parte minoritaria, dal combustibile che si usa, ma dipende dallo stesso processo che trasforma il calcare in clinker, che è poi il principale ingrediente del cemento. E da qui il gioco di parole clinker, cioè clinker pulito. L'unico modo per rendere priva di emissioni la produzione di cemento consiste nel riuscire a separare la CO2 dai fumi di combustione in modo che se ne possa evitare l'emissione in atmosfera, e il progetto Clinker esplora una nuova strategia per farlo. Ne parliamo con il professor Matteo Romano, che è docente di sistemi per l'energia e l'ambiente del Dipartimento Energia del Politecnico di Milano, nonché responsabile per il suddetto Politecnico del progetto Clinker. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto questo progetto Clinker che cosa fa? Applica un processo che si chiama calcium looping. Senza entrare nei dettagli, quali sono i benefici, diciamo, gli aspetti interessanti di questo processo? Allora, il processo calcium looping ha innanzitutto l'obiettivo di separare la CO2 prodotta dall'impianto di produzione del cemento, evitandone l'emissione in atmosfera. E come viene ottenuto questo obiettivo? Viene ottenuto utilizzando materiale solido che reagisce con la CO2 nei gas combusti e assorbendola come se fosse una spugna e poi rilasciandola in forma pura tramite un riscaldamento. I vantaggi di questa tecnologia sono principalmente due. Il primo è che questo materiale, questa spugna, è di fatto lo stesso materiale che viene già utilizzato per la produzione del cemento. Inoltre questa operazione di assorbimento della CO2 avviene in componenti che sono molto simili a quelli già in utilizzo e già noti all'industria del cemento. Il secondo grande vantaggio della tecnologia è che consente di catturare la CO2 senza modificare buona parte del funzionamento di una cementeria convenzionale. Ecco, sappiamo che uno degli aspetti più rilevanti è poi il costo di queste procedure. Più o meno quanto costa rimuovere una tonnellata di CO2 dai fumi di scarico di una cementeria utilizzando, secondo le vostre stime naturalmente, utilizzando questa tecnologia? Ecco, sì, si tratta di costi stimati dal momento che sono ottenuti tramite calcoli che derivano da modelli, quindi non del tutto validati dal punto di vista industriale. Fine c'è questo impianto pilota che è entrato in funzione proprio per, come dire, consolidare, no, anche queste stime. Esatto, e noi stimiamo che il costo della CO2 evitata e quindi la carbon tax necessaria per rendere competitivo questo processo sia dell'ordine dei 30-50 euro per tonnellata di CO2. È una cifra compatibile con i valori, diciamo, di un'ipotetica carbon tax generalizzata, imposta quindi politicamente? È assolutamente una cifra in linea con le attese di una potenziale carbon tax. Ecco, si ipotizzano anche cifre più alte, cioè chi sostiene la carbon tax sostiene anche che si debbano applicare, diciamo, valori più elevati. Quali sono i concorrenti, diciamo così, di questa tecnologia per separare la CO2 dai fumi di cementeria? Allora, ci sono alcune alternative tecnologiche e ce ne sono principalmente due. La prima è una cattura post-combustione con solventi, che consiste nell'assorbire la CO2 con delle sostanze chimiche liquide. Questa è una tecnologia consolidata che però richiede l'introduzione di nuove sostanze chimiche e nuovi processi all'interno di una cementeria, e inoltre nell'applicazione nella cementeria ha un problema economico, nel senso che in questo caso il costo della CO2 evitata è stimato essere intorno ai 100 euro la tonnellata. La seconda tecnologia è la tecnologia ossicombustione, che consiste nella conversione di una cementeria da una combustione in aria a una combustione in ossigeno. In questo modo è possibile ottenere dei gas combusti che siano privi dell'azoto che è presente nell'aria, ma siano quindi ricchi di CO2 e acqua. CO2 che è facilmente ottenibile poi in forma pura una volta che l'acqua viene condensata. Il problema di questa tecnologia è il rischio di rientrate d'aria e il rischio di la necessità di dover garantire... Cioè la cementeria non è a tenuta stagna, ha dei grossi spifferi, potremmo dire così. Esattamente, nei quali rientra l'aria e può andare a diluire nuovamente la CO2 rendendo poco efficace il processo di ossicombustione. Molto chiaro, e questo è il motivo appunto per cui questo processo, il calcium looping, che non presenta né costi troppo elevati né queste difficoltà di implementazione dovute alle rientrate d'aria, così interessante. Ecco, l'impianto pilota attualmente che viene sperimentato processerà l'1% dei gas di questo impianto di produzione del cemento, che però produce più di 1 milione di tonnellate di cemento l'anno. Ecco, quindi se funziona questo impianto pilota siamo a posto? Beh, no, se funziona questo impianto pilota, prima di un'applicazione commerciale sarà molto probabilmente necessario un test a scala intermedia, diciamo che tratti 20-30% della portata dei gas di una cementeria e che funzioni per diverse centinaia di ore all'anno consecutive in modo da dimostrare la tecnologia su una scala intermedia. Ecco, però insomma non è lontanissimo questo obiettivo a questo punto. Se viene superato, diciamo, il test di questo impianto pilota, possiamo dire che il grosso è fatto? Possiamo dire che buona parte è fatta, sì. Va bene, allora, grazie professor Romano. Ci risentiremo con voi del progetto Clinker, perché a questo punto siamo curiosi di vedere come va a finire. Grazie, buona serata. Buonasera, grazie a lei. Bene, cari ascoltatori, è tutto. Appuntamento a lunedì, buon fine settimana. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.